Seconda parte di 451 frammenti sonori, e abbiamo iniziato appunto da dove ci eravamo un po' fermati nella prima, per queste antiche memorie. Fursax, dal suo album del 2010, come dicevo prima, che ricorda un po' anche certi current di passaggio, visto che l'abbiamo uniti, insomma, la novella fatta in grandi vecchi Popol Vuh e anche current 93, magari un po' meno vecchi e sicuramente vivi, visto che Florian Fichte invece non c'è più da qualche anno. E Fursax ricorda appunto magari dischi come As War Disappear di Current 93, proprio quel passaggio che fecero dalle musiche industriali, noise, elettroniche, ritualistiche e quant'altro del primo periodo, per darsi a questa folk che poi fu chiamato, insomma, folk apocalittico, anche in maniera così non particolarmente felice, in realtà, insomma, Incredible String Band e Fearer Band, tante formazioni degli anni 70, gli stessi Popol Vuh uscivano fuori in dischi meravigliosi come Earth Covers Earth, citavo prima As War Disappear, che per tanti versi attraversa anche le corde di Fursax, oltre la grande, chiaramente, così, musa ispiratrice, che non può essere altro che la Nico di Desert Shore. E per appunto riprendere queste antiche scale, antiche memorie, come appunto abbiamo titolato questa sera la trasmissione di 451 frammenti sonori, forse ci trasferiamo sicuramente in terre più consone, diciamo, un folk di taglio più revivalistico per alcuni aspetti, ma poi in realtà non è proprio così per Espers, già, insomma, il nome del gruppo ci riporta poteri paranormali, quelli degli Esp, delle telepatie, e con Espers, soprattutto quello del primo disco che andiamo a trovare nel 2003, si va a rintracciare quel suono che negli anni zero è stato molto fecondo, quello di ritrovare dentro quelle matrici folk, soprattutto europee, di maggior spessore, sicuramente storico, di forse antiche memorie più recondite rispetto a quelle americane. Poi troveremo anche quelle americane successivamente nel percorso di questa seconda parte di 451 frammenti sonori. Espers per molti aspetti si rifanno all'Europa di Pentangle e di Fairport Convention, seppur con questa memoria anche californiana di quelle psichedelie che andavano, insomma, tanto in India quanto a rintracciare vecchie sonorità ritualistiche quasi a cercare gli antenati pelle rosse, gli antenati insomma di quelle terre, i nativi. Con Espers appunto c'è questo sorta di sintesi sonora tra queste varie attitudini, questi aspetti decisamente reconditi che vengono appunto fatti riemergere già nel 2003 appunto con l'album omonimo. Ce ne andiamo a ascoltare sicuramente più addolciti rispetto alle fughe cosmiche di Popol Vuh o all'ardore misticheggiante di Current 93 o quello perso dentro boschi ancora non conosciuti di Fursax. Espers invece magari sono più da prateria aperta, ma appunto anche loro con un viatico che ci riportano alla memoria appunto antichità e faccende assai lontane nel tempo, riscoperte e per questo appunto rinverdite. Struggling to pry apart the memories you try. Dagli Espers, i Dita Rod, stupenda formazione che non esiste più, forse insieme a Espers, Six Organov, Armitage, tra le formazioni che più hanno dato vita a questa scena, se vogliamo chiamarla tale, visto i vari intrecci che ci sono tra i personaggi, soprattutto americani, di questo new si potrebbe dire folk revival, visto che già negli anni 70 ci fu un folk revival, che è appunto quello citato prima, di Pentangle, Incredible String Band, Fairport Convention, eccetera eccetera, veramente ne potremmo citare tanti. Tra l'altro, insomma, già abbiamo solcato territori legati al folk, un po' con le primissime trasmissioni che trovate sul blog di 451 frammenti sonori.noblogs.org, così l'ho pure ridetto. E quindi lì potete anche, insomma, ascoltare anche vecchie progettualità, tra l'altro anche molto ispirate a uno splendido libro scritto da Gino La Soler, che è proprio dedicato sia alla scena degli anni 70 che è quella invece degli anni zero, quindi questo ritorno di questo, come abbiamo detto prima, rivitalità di un genere che non è un genere, se non per forse una transgenia, quindi andare oltre appunto anche le nascite, forse trovare appunto degli approdi veramente molto lontani, quasi infiniti, dentro appunto questo fluttuare tra spazio-tempo che vogliono sia Espers sia Iditarod e anche Alasdair Roberts, forse veramente un personaggio che ricorda più i menestrelli medievali più che i folk singer anche moderni. Veramente i riferimenti sono tanti ai vecchi viandanti, quasi a trovare veramente una natura musicale molto molto antica che affonda appunto nella vecchia Europa e forse anche in quei viaggi anche così molto trassognati descritti dal Marco Polo e che appunto si intrecciano insomma tra culture molto antiche occidentali e orientali, proprio questo scambio che avveniva neanche tanto in maniera sottaciuta come invece poi si è insomma suddiviso appunto tra Occidente e Oriente. In realtà insomma la faccenda è molto ma molto più volutamente, anche meravigliosamente anche tale mischiata, tale appunto da portare personaggi come lui, ad Asdair Roberts, veramente verso tempi e spazi molto lontani nel tempo e decisamente ispirati come nel suo No Earthly Man. Ce lo andiamo a ascoltare. Si può dire che Alice D. Roberts manchi l'ispirazione, come un'ispirazione che viene veramente da tanto lontano, come dicevamo prima, ma come d'altronde stiamo un po' facendo per tutti i vari personaggi che stanno passando qua da queste antiche memorie. E queste erano appunto le antiche memorie di un menestrello ritrovato, magari risvegliato da secolare sussulto verso musicalità, ma anche proprio anche un modo, insomma, di intendere la vita, sicuramente più complesso rispetto, insomma, anche a mere quotidianità, anche musicale. Ad esempio, Roberts si allarga molto, e lo fa anche decisamente bene, come d'altronde anche Daniel Higgs. Se con Alan Dean Roberts si va appunto verso il menestrello, forse con Daniel Higgs si va verso veramente il jolly, inteso anche come folle, come personaggio matto, il matto che, insomma, come forse da queste parti si può ricordare il bagatto, no? Di, insomma, memoria emiliana romagnola, se non vado errato o errando, perché, insomma, qua stiamo anche spostandoci, insomma, in maniera vivace tra territorialità varie. Appunto il matto Daniel Higgs, che appunto percorre vie veramente assurdiste, tra una sorta di citazione continua a Gigi Allen, quindi il punk più assurdo, più anche involuto, volutamente involuto, appunto, del personaggio di culto Gigi Allen, a personaggi di grande poesia come Yeats o Dylan Thomas, e musiche che attraversano sia misticismi orientali come musiche country western, attraversate da strane sintonie, strane frequenze. È un po' tutto così il disco Atomic Yggdrasil Tarot, anche questo titolo, insomma, piuttosto assurdo, come tutto il mondo di Daniel Higgs, piuttosto variegato di follie di vario tipo, non soltanto sonore, anche come personaggio. Ma la stessa copertina di questo Atomic Yggdrasil Tarot ricordano momenti tra il magico e il veramente l'errare folle del viandante alla ricerca, appunto, di corti o di situazioni, insomma, più popolari, dove appunto destreggiarsi in maniera assolutamente pazzoide e fantastica, come appunto fa sonoricamente appunto Daniel Higgs. Thank you. Thank you. Beh, l'avevamo detto all'inizio, saremmo passati anche dalle terre americane e lo stiamo facendo ancora con Jackie O' Motherfucker, splendida formazione che si muove sui territori delle psichedelie, delle memorie, antiche memorie psichedeliche, antiche per quel gioco di specchi a cui accennavo prima, cioè quelle musiche che negli anni 60 così volevano rompere i confini territoriali, ma anche appunto quelli temporali, andando a trovare tanto i raga indiani quanto mondi medio orientali, strane tribalità africane riportate nella modernità oppure traslate attraverso appunto lo spazio e il tempo. E Jackie O' Motherfucker riprendono un po' quel viaggio lungo, quella strange trip del Grateful Dead, di formazioni che facevano della jam un'arte aperta assolutamente a appunto sconfinamenti e a nuovi approdi. Tante volte Jackie O' Motherfucker ci hanno abituato a questi appunto queste dilatazioni spaziali, temporali che sono quasi presenti in tutti i loro dischi, con appunto tutti i rimandi non soltanto statunitensi ma appunto che vanno al di fuori dei confini americani e come ci vanno appunto a cercare anche strane armonie che ripescano più forse dal mondo orientale, come d'altronde fanno altri americani anche loro attaccati alle musiche folcloristiche dei loro Stati Uniti, Sun City Girl, ma anche a mondi orientali, anche a una sorta di etnologia tra così il ricercato e lo scientifico, tra virgolette, anche un po' il visionario, il pazzoide. Sun City Girl, che ci andiamo a prendere da un disco da cui così estraiamo i tre pezzi finali, appunto Sun City Girl, poi A Chi Onda, poi dopo vi dirò anche chi altro. Sun City Girl, che Dry Valley, questo pezzo è dentro Jukebox Buddha, uno strano disco tra ironie, tra appunto una sorta di filologia delle musiche più vicine forse al buddismo zen che a quello indiano, per così un senso anche del paradosso che va da personaggi decisamente elettronici tipo Jelinek e Alog, personaggi insomma molto anche lontani da mondo misticheggianti come Blixa Bargett o Adrian Sherwood ad esempio, ma anche personaggi appunto come Sun City Girl e A Chi Onda, che sentiremo anche dopo. Con Sun City Girl appunto si così pontifica attraverso una sonorità americana quanto straniera e quanto anche forse a volte extraterrestre nel loro essere così veramente fuori dalle orbite musicali e sempre inusitati comunque nelle loro ricerche sia etnomusicologiche e sia così illuminate e anche accese da grande fantasia, se non addirittura bruciate a volte. Sun City Girl. Thank you. Again. Again. Again. Thank you. Sun City Girl è a che onda da questo jukebox Buddha, un strano modo di tributare, poi di giocare con la Buddha Machine, con i loop creati da questa macchinetta, sì, che per certi versi insomma riporta più a un gioco così infantile, per altri così ricorda forme paradossali, appunto forse anche vicine a certi giochi appunto innocenti e non quindi scherzi, seppur sia Sun City Girl che Aki Honda, che viene invece più che da viaggi attraverso insomma territori tra Americhe antiche e mondi medio orientali, di Sun City Girl viene più dall'impro e da invece un impatto sonoro anche più scorbutico rispetto a Sun City Girl, perlomeno per materia sonora trattata, insomma l'impro radicale di Aki Honda, che da 10 anni con anche personaggi decisamente importanti del giro come Alan Licht porta insomma una nuova forma di arte e di percorso, anche in questa forma appunto decisamente paradossale della Buddha Machine, di questo jukebox Buddha, dove appunto una sonorità che ricordava antiche memorie rituali poi veniva screziata da questo strano scratch, da questo momento appunto quasi urticante a livello sonoro, ma tant'è che il mondo di Aki Honda è pieno di questi momenti così che disinnescano anche momenti così astratti. E concludiamo la trasmissione di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia e di ospiti che magari così portano anche illuminazioni al sottoscritto, antiche memorie che vanno a trovare la Cina sonora che in questi anni si sta facendo anche sentire, come Wang Fang, personaggio che insomma sta facendo dell'impro elettronica molto interessante in questi ultimi periodi, giovane cinese elettronico, anche in questo senso insomma spinge una Cina che si fa nuova anche in termini musicali, però con questo senso sempre che, se vogliamo, mai rotto, se pensiamo insomma a Libretto Rosso di Mao, che è preso insomma per tanti aspetti dal taoismo per creare questa anche comunicazione diretta a livello popolare, c'è questa affiliazione anche nella musica di Wang Fang, senza per forza insomma riempirlo di ideologia. Era un semplice riferimento per forse così farci tuffare una realtà anche sonora differente, per questo anche piuttosto interessante, quella appunto di Wang Fang e di nuovi musicisti elettronici cinesi, che sì, elettronici, ma anche appunto con quel mondo orientale che millenario, ricorda appunto antichissime culture, appunto come quella che affonda nei cantoni cinesi e nel linguaggio tradizionale appunto di quelle terre, forse insomma non più di tanto lontane come una volta invece sembravano. Buonanotte da Max Macchia, vi saluta e vi rimanda alla prossima domenica in compagnia anche di Eliseo Scarpa. Tra due poi settimane, prima citavo anche Gino e questa sera per certi versi abbiamo citato anche con l'inizio di trasmissione il Krautrock e la Cosmice Music, che appunto farà insomma da padrona per uno special insieme a Gino al Soler, insieme a DJ Tetro, insieme a Jerry e chiaramente a noi di 451 frammenti sonori. La prossima settimana invece torneremo insomma ancora in duo. Buonanotte con Wang Fang, fate i bravi se potete questa settimana, se, insomma, fate quello che potete, che riuscite. Ciao, ciao da Max Mack ancora. 南无萨法达达伽利那，我们维普尔伽比曼尼普尔比达因达沙里曼尼曼尼苏普尔比维美萨格拉冈平，轰轰，那巴拉那巴，布杜布拉伽的古哈迪斯卡比索哈。南无萨法达达伽利那，唵维帕伽比玛尼帕比达因达沙里玛尼玛尼苏帕比维美萨格拉冈平，轰轰，那巴拉那巴，布杜布拉伽的古哈迪斯卡比索哈。